nessuno, proprio a nessuno la dedicherò. Quando alla gente tu offri qualcosa, devi sempre spiegare perché. C'è qualcosa presente ogni volta che qualcuno scrive una canzone. La scintilla di genio non conta, nel mercato questa è la sensazione. Il suo segreto è la pubblicità, ti fa saziare poco la volontà. E la ricetta essenziale ti dà quello che vuoi e ti spingerà a chiedere di noi. A chiedere di noi. Se vai sicuro fermo per la tua strada, trovi sempre chi dice di no. Capisco che cosa mi offri, più della musica io non ti do. Finché il potere dipende da loro, lunga la lista d'attesa sarà. Perché la musica è una cosa importante, e solo un folle venderà ciò che dà. E il suo segreto è la pubblicità, ti fa saziare poco la volontà. E la ricetta essenziale ti dà quello che vuoi e ti spiega.